and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, una bella partenza liscia, fluida. Fluida. Fluida. Diciamo due parole sulla vacanze. No, sulla questione del flauto dolce, K, che continuano ad arrivare i messaggi di quelli che vogliono indovinare qual era quello strumento che abbiamo fatto ascoltare. Possiamo farlo risentire dalla regia settimana. Un attimo. Aspetta, facciamo risentire figurati, un attimo. Sì, sì, infatti sono prontissimi, come vedi. Roberto e Claudia, fermi come due. Era quello della salva schermi, va bene. Comunque volevo dire qui che un po' si muovono. Lo strumento non è il flauto dolce. No, assomiglia no. molto al flauto dolce, non è nemmeno, qualcuno ha scritto un'ocarina, poteva essere, insomma, sì, però no. Lasciamo ancora possiamo un po' di dire mistero. Che è uno strumento a fiato, è uno strumento a fiato. Sì, però poi il fiato viene convogliato, no, ok, non è detto, vabbè. È uno strumento a fiato. Strumento a fiato. Adesso vacanze. Vacanze, però adesso c'è. No, no, i giornali sono pieni di articoli tappabuchi, quelli che si scrivono a luglio, giugno, luglio. Infatti. Che sono quegli articoli che parlano dei compiti delle vacanze. Sono utili i compiti delle vacanze? No, no, basta. Invece risposta, sì, ma come no? Ma cioè, tu, scusa, come facevi tu quando andavi a scuola? Facevi i compiti delle vacanze. Scuola no, svizzera. Pochi, pochi. Ne davano pochi. Pochi o quasi niente. Quindi, quindi libro niente, tutta l'estate, libro arrivavi tutta l'estate. A settembre, non capivi più niente. Ma come no? Ma perché noi ci ricordiamo le cose, noi svizzeri. Invece io le chiudiamo nel cavò e ce le ricordiamo. Certo, invece io avevo un sacco di compiti da fare, non li facevo. Sì, e poi i primi giorni di scuola, invece di essere contento perché sono i giorni migliori, no? I primi giorni di scuola, ero sempre angosciato perché avevo paura che chiedessero i compiti delle vacanze. Ma non me li hanno mai chiesti, ma era tutta una finta per indurci a studiare. Poi non se non studiavi era studiare. Uguale. Vabbè. Non bisogna studiare più di 10 minuti al giorno per ogni anno di scuola già frequentato. Ma chi lo dice? Non lo dico io, lo dicono sul New York Times. Quelli della Galloway District School. Ho fatto i compiti come fai tu. Bravo, tiri fuori queste statistiche. Cos'è questa qua? Galloway? È una scuola pubblica del New Jersey. Vabbè, che ha fatto questo calcolo. 10 minuti al giorno per ogni anno di scuola già frequentato. Così, tu hai frequentato quanti anni di scuola nella tua vita, università compresa? Non lo so. Facciamo due conti, dai. 16. 16, cioè 5 di elementare. No, tu hai fatto 6 di elementare, no, già, 5, perché 5, sei uno svizzero. 5, ho fatto 2 anni di asilo, però, anzi 3. Vabbè, se lascia perdere l'asilo. Quanti anni conta, è, insomma? No? Quanti anni sono? Non lo so, ti ho detto 16. 16 giusto? Per 10, 160. 17, non so. Sono 160 minuti, che sono comunque... Quanto sono? Due ma ore? Non lo so, se non sai niente di matematica, cosa ti butti in ste robe? Tu, io, scusa, insomma, tu quanti... 22 anni da quando ho fatto il primo giorno di elementare, quando mi sono laureato a fatica in e quindi così, adesso no? D'estate dovresti studiare 22 anni, 220 minuti al giorno, che sono quasi 6 ore E non hai ancora cominciato, sei qui che parli, dovresti fare studia, fai i logaritmi, le cose. No, come no? Logaritmi no. E poi guarda Drago, scusa, rilassati, noi non ce li abbiamo i compiti delle vacanze, non abbiamo neanche le vacanze. E ora bambini, ricreazione. Ema! Oh, bambino Alberto, cos'è Ema! Che hai? Ma sta zitto un attimo! Cos'è Ema? Chi è Ema? Ma no, ma Ema, sto provando? Cioè, sto imitando la mamma di Ema quando chiama Ema. Povero DJ Albertino. Lui è rimasto sconvolto da quella donnaccia cattiva che vede sempre al parchetto sotto casa sua e che tratta male suo figlio, sì, Ema. Vuole vedere te? Ema! Guarda che se vengo lì ti incateno il tombino, Ma come il tombino? Ma io urlo così come una pazza, È creativa, però. Ti incateno è anche scusate, difficile. È proprio per quello che io voglio fare la campagna Salviamo il bambino Ema. Mica per niente. Ma posso dire una cosa un po' scorretta politicamente? Posso? Io non so cosa vuol dire. Vabbè, quindi niente, posso? Vai. Ecco. A cosa serve salvare un bambino che è già completamente rovinato? Vabbè. Dai, tanto vale eliminarlo da subito. Ma cosa dici, capo? Drago, scusa, che adulto può uscire da un bambino così? Ma cosa c'è? Tutto il giorno Ma... ti ammazzo! Ho capito, appunto per quello va aiutato. È spacciato, scusa, liberiamolo Ema! Da una so... Vabbè. È inutile che ti ribelli! Tanto il tuo destino è segnato! Vedi, io posso dire che questo determinismo non mi piace affatto? No, non ho capito cosa non ti piace. Il determinismo alla Émile Zola, no? Basta questo Niente, vabbè, niente. Ma no, niente, niente cosa, Drago? Niente, non niente. Ho capito niente neanch'io. Ma chi? Sì, Emile Zola? Ma sono no, Emile Zola, sono cose dell'Ottocento. Ah, Ottocento. Ma comunque non posso accettare che un bambino sia condannato a crescere peggio di quello che potrebbe in teoria. In appunto, teoria Drago, potrebbe... ma in teoria, in pratica, poi le cose cambiano. Sappiamo già che Emma non si salverà. In teoria è un bambino come tutti gli altri. In pratica è un deviante. Ma vabbè. Emma! Senti. Ma sei un deviante! Ma sei deviato! Ma vedi, anche adesso il bambino Alberto ha queste idee retrograde che gli hai messo in testa tu. Lui prima voleva salvarlo. Almeno arricchisce il vocabolario. Emma, te lo dico una volta per tutte, tu sei senza speranza! A meno non gli dice più di non bere l'acqua nella pozzanghera, al recinto dei cani. Ma non è la mamma che chiede, adesso qui è il bambino Alberto che prima aveva un'idea nobile, no? Adesso sta facendo la mamma, hai capito? La mamma che evolve. Lui prima voleva salvare il bambino Alberto, adesso invece è tutto andato a ramengo. La mamma poi gli dice where are you from perché gli vuol parlare l'inglese, insegnargli l'inglese, ma è sbagliando. Tanto vale che gli dica deviante, deviato, no? Emma, where are you from? Smetti di toccare la vecchia! Ma come toccare la vecchia? Vabbè. Ma no! Ma in che senso? Perché disturba, dei cacci negli specchi, no? La signora con le cazze contenitive, le gambe gonfie, un male tremendo, eh! Ma bambino Alberto! Emma! Lascia stare la nonna! No, niente, niente. Cosa niente, niente? Cosa, Emma? E perché ogni tanto? Lei, siccome urla sempre Emma, a un certo punto non c'ha più niente da dire. E dice, lui fa, Lei quasi tutta trafelata. E no, niente, niente. E così si nervosisce, no? La madre. Perché sembra che è rimasta un po', come dire, una figura, no? Imbarazzata. Lui c'è, e lei. Niente. È un po' un coitus interruptus. Sì, ha capito, però ogni volta che c'è questo coitus interruptus. È l'interruptus, no? Coitus, non so cosa basta, però ho capito l'intenzione. Sì. Ogni volta che c'è questo coitus interruptus. E poi Emma si era a casa. E poi arriva il padre. Ma guarda che se te lo dico tuo padre, che ha guidato dalla Bielorussia da stamattina fino a stasera! Guarda che torna a casa e con lui si vede un bambino! Uè, e gli dico, gli ho già mandato un SMS! Che gli dico che Emma è stato cattivo! E qua adesso è accelerato! Adesso accelera con lui! Si è preso anche la sciunca! La? Una sciunca! Cos'è? È un lardo? È un lardo del. È un lardo rumeno. E lì attraverso la Romania? Ma si ferma, grappa e sciunca! Il marito della madre. Il papà di Emma. Il papà di Emma. Il papà di Emma, tu sei il marito della madre. Ma, cioè, come, cosa papà fai, di Emma, no? Ma cosa fai in Bielorussia? Non ho, mi sono perso la Bielorussia. Ma fa camionista, voi non ci avevi. Dai, guida tutto il giorno. E si beve la sciunca. No, mangia la sciunca e beve la grappa. La schnapps. Arriva giù incazzato nero. Si vede un bambino. Ma è una cosa per dormire. Dice, madonna mia, ci mette la foto del bambino. Non quella, ciao papà. Quello bambino che lo guarda e gli viene il fotone, no? Dico, madonna, questo qui appena arrivo a casa gli sfondo il cranio. E questo qui è il padre. Quello di prima è la madre. E questa è la famiglia di Emma. Chiedo asilo! Diventiamo tutti svizzeri, Kappa. No, penso noi, tipo. Fai già la traduzione. Va bene, allora. È un studio recente dell'Università di Zurigo ha spiegato che proponendo a dei bambini di 9 mesi un quadro cubista di Picasso e un quadro lacustre di Monet, la preferenza dei bambini è sempre netta e va a Picasso. E cazzo! Ecco. Vabbè, ma Drago, ma scopri l'acqua calda, come al solito, ma è ovvio. Dici? Ma scusa, Picasso è arte difficile da capire, Monet invece è facile, ma fa dei ma paesaggi. Un bambino di 9 mesi non sta mica lì ad ammirare le sfumature di Monet. No. Ma no, preferisce uno sgangherato Picasso con l'occhio sul sedere. Ma come fai a saperlo tu? Braccio. Ma scusa, hanno dovuto studiare anni per arrivare alla conclusione che tu mi sciorini così in maniera in souplesse. La ricerca dice che le forme più nette e decise dei quadri cubisti concentrano l'attenzione dell'occhio del bambino, a differenza delle sagome molto più accennate e sfumate di un quadro impressionista, che sono difficili appunto da catturare. Ma guarda che hai Picasso capito? L'ha sempre detto. Io ci ho messo una vita a imparare, cioè io Picasso. Io ci ho messo una diceva così. Ci ho messo una vita a imparare. A imparare a disegnare come un bambino, hai capito? È tutta una questione di regressione. Vuol dire, ma siamo qua da 6 mesi, 7, 8, non so, forse troppo pochi. Secondo me, a parlare di queste cose e tu arrivi qui, tiri fuori questi studi di Zurigo. Vabbè che Zurigo, ma insomma sono cose che si sanno, no? Picasso ha regredito per arrivare alla sua arte sublime. Ho capito. Però quindi è per forza che piace di più lui ai bambini 9 mesi. Anzi, guarda, per comunicare questa cosa ai bambini, qui siamo pieni di bambini. Oddio, insomma, ce n'è sempre meno perché sono le vacanze. Sono però dovremmo attaccare i muri invece che i disegni dei bambini tremendi, quelli di Picasso. Attacchiamo di due o tre Picasso. Originale, beh, chiedo in direzione io se ce ne compro una mezza dozzina, così. Sì, al chilo. Perché poi dopo andavo, facevo un assolo, fai l'assolo. Ema, where are you from? Fai l'assolo.